Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Oggi sappiamo che vivrà fino alla fine dei suoi giorni nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. Charmanca, charlatanca. C'è una figura che mi piace moltissimo ed è l'uomo angelicato, perché moltissime donne angelicano i maschi, cioè tolgono loro tutti i connotati terreni, così come durante il dolce stil novo i maschi facevano con le donne, e così vanno avanti nella loro vita di trottatrici domestiche del lavoro, vanno avanti con un pensiero d'amore spesso. E questo è tratto da un romanzo che si chiama Il ritorno dei mariti, scritto da me e pubblicato da Mondadori. È la storia di Delia che ha una merceria, è stata lasciata dal marito, ha una vita disastratissima. Come fa sempre, Delia ha eletto un cavaliere ai piedi del quale deporre il suo modico eroismo, uno spettatore immaginario delle privazioni, degli sgarbi, dei piccoli capolavori che nessuno vedrà. Al momento il simulacro è il professor Carpinella, marittimo in baby pensione che viene a comprare bottoni con l'ancora e pagando le sfiora la mano. Per caso? E chi lo sa? Che gliene frega a lei? Lei non vuole l'amore, vuole un pensiero d'amore. Di tutto può fare a meno: del parrucchiere, del cinema, del rispetto, dell'automobile, degli sport invernali, di un vestito degno del nome, di un amante, delle scarpe nuove. Ma non di quello. L'importante è non conoscerlo veramente, per offrirgli tutto, come un dio ignaro, purché la faccia sorridere, purché galleggi nel fondo di un sogno. Delia ha figliato, ha allattato, è stata nei letti, ha militato con disciplina nella carne. E ora finalmente si permette la sua età ideale, i 6 anni, quando lo sguardo era tutto. Ora si permette il lusso della castità. Più invecchia, più le piace innamorarsi come a scuola. La sua castità è una tentazione di immortalità. Delia ha imparato a muoversi fra i fantasmi prendendoli per veri. Sa fare solo quello, ma bene. Non è stato sempre così. Dopo l'abbandono del marito, ha dovuto rifarsi una vita. Non lo aveva mai tradito, non per principio. La sua fedeltà era una raffinata forma di felicità, che la maggior parte, indaffarata dal raffare, non conosce. Dopo il divorzio, Delia si è trovata da sola per la prima volta. Un po' le amiche, un po' la curiosità, un po' per dispetto, si è sentita in obbligo di fare esperienza. Si è buttata nei letti come chi fa il soldato. Ci fu anche un nano, affascinante, ma traditore. Però, sotto il travestimento da libertina, come i baffi del lupo che finge di essere la nonna, spuntava la bambina che a scuola aveva imparato una cosa sola: le promesse si mantengono. Così seguiva un principio ferreo: se lo fai venire duro a un uomo, poi ci devi stare, è un dovere morale. All'inizio ha applicato la regola con testardaggine, poi ha capito che non le sarebbero bastate 10 vite e ha desistito. È stato allora che ha scoperto le donne, sessualmente interessanti, ma non ha avuto fortuna. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Un minimo gesto d'amore. Lei lo fa durare come il lecca-lecca a un bambino povero. Ma oggi che lo sa più cos'era un lecca-lecca? Era l'idea platonica della caramella. Era una caramella immaginaria, come l'amore. Del maschio le piacciono i segni esteriori. La foto del nonno nell'ovale, i baffi, l'odore di tabacco forte, la camicia, la cravatta, le scarpe. Il maschio è per lei come nel film di Jean Renoir, La grande illusione, una storia di guerra, dove la donna tedesca che ha nascosto un francese, Jean Gabin, quando lui deve andare via gli dice: mi mancherà il tuo passo d'uomo per casa. Il maschio, per Delia, è quel passo. Il passo di suo padre, così affettuoso che oggi, con l'ossessione pedofila, lo avrebbero carcerato. La domenica mattina Delia andava nel suo letto, si nascondeva nell'Africa pelosa del suo petto e con quei peli faceva le treccine. Gli amori immaginari le fanno ruotare il mondo, come la palla di vetro azzurrina con l'acqua dentro che le regalò suo padre, che rovesciata veniva la neve, ed era Pietroburgo, era Cina. Però col professore qualcosa di concreto c'è stato. Un momento di confidenza in negozio da soli. Lui d'un tratto si è aperto la camicia, le ha mostrato la cicatrice sul petto e le ha detto all'orecchio, come se temesse dei microfoni nascosti: Io sono un invalido del fascismo femminista. Poi più niente di personale, ma quando lo incontra, la fulmina con le sue occhiate. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть. Delia sta tornando a casa. È quasi arrivata che di colpo la stradina si spalanca come in un cartoon, come il computer. Il sordo colore dell'asfalto vira in turchese. Il bollore diventa frescura, brezza, onde. Dal fondo viene avanti in bicicletta il professor Carpinella, che la guarda e sorride. La mano ambrata di nicotina si leva a salutarla. Cinque dita, ognuna con un'espressione diversa. Tutto sparisce. Il suocero, le bollette, pure la suocera sparisce. E la faccia del marito sommamente da culo, quando faceva il contrito col piede già sulla scaletta dell'aereo che lo portava dall'altra. Tutto sparisce, per lui che passa in bicicletta, sfranto dal caldo, e un atomo del suo sudore le arriva al naso e si sente capace di tutto. Di tenere testa alla suocera, di resuscitare il suocero, di salvare il negozio e chissà che altro. Avanti, ditelo. E lei lo farà. A questo serve l'amore. Se no, a che cazzo serve? Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Il mio vicino di casa un giorno mi invita da lui mostrandomi una specie di altarino a me dedicato, messo lì nel corso degli anni. Il laccio di una scarpa perso per la strada e da lui gelosamente conservato, foto scattate dalle imposte semichiuse e altri cimeli che lui ha saputo spiegarmi con molto spirito, tutt'altro che il tipo del maniaco. Mi ha fatto capire di non spaventarmi perché nonostante avesse fatto di me una specie di idolo, era anche pronto a vivermi come persona vera. Ci siamo messi insieme, ma quest'uomo dipende da me come un neonato. Se non gli telefono più volte, non lo rassicuro di continuo, lui non vive. Io sono di natura affettuosa, ma i gesti d'amore, fatti perché se no lui muore, alla fine mi sembra di essere un'infermiera. Lui sotto sotto se ne frega, pensa al suo amore, e a me manco mi vede. Lui mi ama smisuratamente, e io mi sento sola. Mi vuole dare per forza il potere di farlo vivere o morire, e in fondo vuole solo la seconda cosa. Tutta questa adorazione, alla fine, è un grandissimo egoismo, e mi stufa. Felice, infelicissima. Cara felice, infelicissima, sappi che una volta che ti fanno salire su un altare è sempre per sacrificarti. Quando la paura dell'amore non sa più dove annidarsi, diventa culto, ovvero atto solitario. Questo tuo neonato non fa che gridare mamma. Ha ragione. Che altro c'è nel creato per consolarci? Però ormai la mamma ce l'ha. È lì. Adesso la deve smettere di frignare. L'ha evocata prima coi suoi infantili riti magici. L'ha presa. Lei lo ama, che vuole? Ma che ti lasci vivere adesso? Oppure resterà davvero orfano? Ma non sarà poi questo che vuole? Edificare altarini in eterno a una donna finalmente morta, catturata e mai più fra i piedi? Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la conduttrice televisiva Monica Leofreddi è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Monica, non ho più notizie da quando sei scomparsa nel Kinderheim. Ciao Barbara, mi hai avvistato in mezzo sì, al mare. È quanto tempo che non ci sentiamo, senti, ma ti vedevo sempre in televisione e poi niente, sei sparita e mi hanno detto dov'è. Sta facendo un bambino, che è proprio come dire l'eroe fa l'impresa. Ci racconti qualcosa? Ma sì, ho cercato di unire le due cose il più possibile, perché comunque insomma, la mia gravidanza non era facile, non riuscivo a rimanere incinta per vari motivi, eccetera. E quindi ho cercato di lavorare intanto di cercare questo figlio. Quando ho visto che le due cose non erano più compatibili, ho scelto di seguire la strada che pensavo fosse più giusta per me, insomma, per non avere rimpianti un giorno, no? E quindi sì, ho lasciato effettivamente un programma che è una rarità, ecco, nessuno lascia mai un programma di successo, però mai come ora sono felice di averlo fatto. Ma com'è andata? Dai, raccontami questa tua esperienza creaturale, perché poi dopo averci provato tanto, immagino che sembri di essere la prima donna nel mondo, a parte che per ognuno è così, sì, cioè, sì, succede sì, a tutti, sì. Ma poi quando succede a te, che in piccolo fai come fa Dio, che ma dai la vita. L'onnipotenza della maternità, devo dire, è pericolosa per certi versi. dici, no? Perché innanzitutto è qualcosa che quando non riesci ad avere figli, per fortuna non immagini che cosa sia veramente averne, e quindi diciamo la sofferenza che stavo già elaborando, perché chiaramente mettevo in conto anche la possibilità di non poterne avere, e quindi nonostante fosse un grande dolore, forse non avrei mai immaginato che cosa avrei perso veramente non avendole. Ha cambiato le cose col tuo uomo? Ma guarda Barbara, un figlio è una tale rivoluzione, quando ti dicono ti cambia la vita è niente rispetto a quello che veramente ti succede. Io onestamente ho trovato innanzitutto una grande fatica che nessuno dice mai, perché si parla sempre delle gioie della maternità e della paternità e poco della vera fatica, un po' perché noi siamo un po' egoisti, poi soprattutto quando un figlio, diciamo quando sei già grande come me, che quindi ha una vita tutta bella impostata con il tuo egoismo bello radicato, quindi a quel punto trovare posto per un figlio non è facile. E poi c'è una fatica proprio anche fisica, vera, cioè io ho detto per 45 anni in pratica non avevo lavorato, nonostante una mattina le sveglia alle 4:15, cioè la stanchezza che ho provato avendo un figlio che poi non dormiva è stata talmente tanta che insomma ho avuto anche momenti di depressione forti. Solo una persona ho sentito in un'intervista pubblica dire questo, che era Ambra Angiolini, che disse, piano, un momento, cioè con queste visioni paradisiache e oleografiche, e disse anche tra il padre e la madre c'è un grosso sconquasso. È un'altra persona che comunque entra nella coppia, devi saper accogliere in un modo equilibrato. Due miei amici registi, sceneggiatori e scrittori, che sono Alessandro Colizzi e sua moglie Silvia Cossu, stanno per fare un film che si chiama Patatracche, il sesso dopo i figli. Cioè che anche quello è un disastro, cioè questo piccolo tiranno in casa, questo piccolo dittatore che in qualsiasi momento è il tuo padrone. Puoi rompere. No, perché no, il tuo padrone per i primi 2 anni veramente non c'è più intimità, a parte che poi la madre tende un po' all'egoismo proprio fisico, a questo cioè non le serve nulla quando c'è il bambino, devo dire, i primi mesi, quando proprio sei tutt'uno con la creatura. Io credo che spesso il padre passa in seconda linea, il padre in quanto marito. Non so quanto sia quello, quanto proprio, io non lo so, almeno la mia esperienza invece è stata proprio una fatica fisica e di testa, no? Cioè, proprio questo accudimento, no? Questo mi ha dato un po' cioè una responsabilità molto grande, molto ampia, molto, come ti posso dire, coinvolgente, no? E anche quello, cioè, per esempio tutti mi dicono vedrai quando cammina, ma per me quando ha cominciato a stare seduto da solo, cioè quando da invertebrato si è trasformato a vertebrato, per me è stato un sollievo enorme, cioè mi sembrava quasi che potesse, come ti posso dire, stare oltre me, no? Cioè non lo so, io da un momento in poi l'ho visto già, ma positivamente, altro da me. Finora sapevo tutto di lui, no? Cioè ero io che raccontavo agli altri tutto quello che lui faceva, perché comunque ero quella che ci passava più tempo. Adesso ho qualcuno che mi racconta cose che io non conosco di lui, di come si comporta a scuola, di che cosa gli piace, e questo mi... Ma sai, perché è una cosa che molte madri non capiscono per tutta la vita, cioè nel senso che quello è un altro. Che un altro da te, ecco. Senti, allora Monica, dimmi un pensiero tenero su di te ed un pensiero severo. Mamma mia, un pensiero tenero è un complimento come mamma, perché io poi alla fine per il momento mi sto piacendo come mamma, forse è molto presuntuoso da dire, no? Però mi davo talmente poche chance in partenza che... Ti dai un voto alto? Mi do un voto, insomma sono stata contenta della pazienza che ho scoperto in me, ma anche della capacità di vivere tutto queste scelte senza frustrazione. Cioè anche scelta di lasciare il lavoro, di fare, sai, lo puoi vivere anche con malinconia poi alla fine, no? Cioè in fondo pentirtene, in fondo non essere serena, e quindi ecco, diciamo, questo è il complimento. E la cattiveria che dico su di me è... Solito severa, non occorre essere cattivi. Severa. Mi rimprovero di non aver avuto abbastanza coraggio dal punto di vista professionale e personale. Durissima. Qui Capitaneria di Porto, è in linea Tiana Jerkovic per Barbara Alberti. Pronto Tiana, dalla lontananza di Finisterre alla lontananza di Belgrado, sei sotto il cielo di Belgrado? Sì, non sì, mi riferisco al titolo del tuo libro. No. Che era il cielo sopra Belgrado. Questo è il cielo vero, non di carta. E mi racconti qualche cosa così sì, che già, ci porti nella tua terra? Sì, già che sono a Belgrado ti racconto una storia belgradese. Sono tutte orecchie, sono sì, due padelle. Allora, Bissera, questo è il nome, era la più bella donna di tutto un quartiere di Belgrado, Vračar. E posso assicurarti veramente che si trattava di un'impresa, come oggi, così anche negli anni, tardi anni 60, quando accade il tutto. Perché la concorrenza anche allora era spietata, ma lei comunque vinceva sempre, e sembrava senza accorgersene. Questo fatto comunque dava molto fastidio in giro. Lei era belgradese, e non è un'indicazione geografica questa, è l'atteggiamento verso la vita, è un modo di parlare e di porsi verso gli altri molto particolare, un modo di essere. Si sposò a 23 anni con un ingegnere, bello anche lui molto, che viaggiava tanto all'estero, e ogni volta che tornava a casa le portava dei regali, dei fiori bellissimi dall'Amsterdam, i regali dall'Africa. Però guarda, era uno che stendeva anche i pannolini quando nacquero uno dietro l'altro i loro tre figli, un fatto insolito dalle nostre parti. Facevano una vita borghese, in forte contrasto con la nostra città allora socialista negli anni di Tito. Lei vestiva i costumi di taglio Chanel, le scarpe di vernice con il tacco luccicante di metallo. Lui era molto elegante con i suoi completi da uomo e con un papillon di ordinanza. Uscivano sempre in macchina, una macchina strana, si chiamava Dampfkraftwagen, una cosa elegantissima. Guidava rigorosamente lei, frequentavano l'opera, teatri, concerti, e tutto attorno nella via dove vivevano fiorivano i pettegolezzi sul loro conto, ma loro non sentivano e non vedevano niente. Quando Bissera compì circa 40 anni, compare a casa loro un uomo giovane, alto, robusto, di chioma folta, spettinata, nera come le tue notti al faro. Sai, era un gigante, tipo un Dmitri Karamazov, tipo un bell'orco. Infatti era un violinista russo di 25 anni. Dopo un po' di frequentazioni, Bissera lasciò la famiglia, la casa, il marito innamoratissimo e devoto e la macchina parcheggiata nel cortile di casa. Il quartiere era in quell'epoca abitato da tante compagne venute dalla provincia, che Belgrado non era ancora riuscita a macinarle e dalle loro polveri fare le belgradesi nuove. E quindi tutte comuniste, un po' culi di pietra? Tutte un po', sì, un po' così. Un po' molto comuniste. Molto per bene, ecco. Sì, molto per benino. Invece lei era un retaggio della vita borghese di quella città. Seguì il suo cuore e il suo violinista fino a Parigi, dove andarono a vivere. Non si vide più nel quartiere, non se ne ebbero più le notizie, non si seppe più niente per tanto, tanto tempo. E tutto fino all'anno scorso, quando sul giornale nazionale apparve l'annuncio di morte di Bissera, corredato da una sua bella foto sorridente, firmato, immaginati, da tutta la famiglia, tre figli, il compagno violinista e l'ex marito ingegnere, e portavano anche le sincere espressioni di profondissimo dolore per la scomparsa della donna più bella di tutto un quartiere, e c'era scritto che sapeva ricevere e dare l'amore come nessun'altra. E grazie Tina, quindi lei è vissuta fino alla fine col suo violinista? Sì, ha vissuto fino alla fine e comunque ha radunato la famiglia sia nella vita che nel momento della morte, diciamo. Ha saputo fare, perché era una donna che non aveva paura di amare. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Avevo un ragazzo musone, io cercavo di rallegrarlo, mi ha lasciato per una piagnona. Poi il seduttore che non sopportava i legami ed è finito con una ricattatrice. Il terzo, un super affettuoso che pretendeva mille giuramenti, il mondo siamo noi, finché ho scoperto che mi tradiva. Ora c'è uno che sembra fatto per me, ma ho paura. Insomma, mi dici chi vince in amore? Anna. Beh, l'amore comprende moltissimi tipi di vittorie. In amore vince chi fugge, chi torna, chi ride, chi piange, vince il bugiardo e vince il sincero. Il punto è, cosa vince? La ricattatrice si troverà in mano un ostaggio. La piagnona, un funerale. Don Giovanni si troverà in mano il gelo del suo catalogo. La tua vittoria ora sarebbe riuscire a fidarti di lui, senza fargli pagare i torti degli altri. Non ne ha colpa. Sarebbe di abbandonarti a lui come se fosse, come dovrebbe essere in amore, la prima volta nel mondo. Qui Capitaneria di Porto, in linea una certa Ilaria che chiede di Barbara Alberti. Pronto? Pronto? Barbara. Chi sei? Ilaria, da Lugano. Ciao, perché mi chiami? Dimmi, raccontami. Io mi sono ripresa, sono rinata 15 anni fa. Che è successo? Che ti è successo 15 anni fa? La classica rottura di matrimonio, conseguente a tradimenti e cose varie. Ma chi ha tradito? Lui è un classico. Quella è una generazione di fenomeni, gli uomini dei 50 anni, è una generazione di fenomeni, veramente di fenomeni, perché ci si trova davanti a maschi, non certo uomini, insomma. Io il meglio della mia vita, il meglio di me, l'ho tirato fuori e l'ho preso con la separazione, dolorosa, terrificante. Mi è costato un accidente, mi è costato un botto, in sofferenze, in termini pratici, economici, tutto. Ma da bambolina sotto teca di cristallo, chiaramente non avevo coscienza di quello che ero. Ma com'era questo matrimonio, appunto? Eri una bambolina sotto teca? Splendido, splendido. Coppia felice, famiglia felice, agiatezza, tutto. Rotto l'incantesimo. Io non ho, sicuramente sbagliando, probabilmente. Ma come si è rotto l'incantesimo? Nel più classico dei modi, quando ti arriva una mattina una telefonata che ti dice guarda, tua vita non è dove dovrebbe essere, ma è dall'altra parte. Ed era una telefonata anonima o un'amica o un amico? Anonima, ma è stata chiaramente detto dove sarebbe stata e con chi, peraltro persona conosciuta, per cui... E in quel momento lì io non ho neanche per un momento pensato di mediare, la rottura per me è stata dentro, non è il tradimento in sé, assolutamente, non è stato il tradimento in sé. Perché tu credevi di avere una confidenza con quest'uomo? Ma eravamo veramente nati e cresciuti assieme dai 16 anni, quindi a prescindere proprio il tradimento dell'idea di noi, quello fisico non mi ha toccato proprio, insomma alla fine era anche comprensibile. Lui è bellissimo, quindi potevo anche capire, ma manco io sono da buttare, quindi c'è stato anche uno scatto d'orgoglio in questo. Però dopo un anno, in maniera traumatica, dolorosa, terrificante, io dovevo portare avanti comunque a prescindere tutto quello in cui credevo e per cui avevo lottato. Io ho fatto un 68 duro e puro. Io ho votato aborto, ho votato divorzio. Se in qualcosa dovevo credere e dovevo dimostrare di crederci, dovevo farlo proprio in quel momento. Cioè non potevo svendermi. Puoi predicare bene e razzolare male. Questo è stato il senso della mia richiesta poi di separazione. E quindi la tua scoperta della vita dopo te e della vita dopo... E com'è andata? Mi racconti qualcosa? Fantastica. Cioè riprendere me, avere il terrore di non sapere neanche come fare un assegno. Come pagare una bolletta. Perché eri quasi come uno che esce dalla galera o da un sequestro. Perché tu avevi affidato bene, tutto a lui. Bene. I rapporti con l'esterno erano affidati tutti a lui? Assolutamente sì, alle varie segretarie. Cioè vivevo veramente in una... È una gabbia dorata. Che mi stava bene finché c'è stata, per carità, è andata benissimo. Io non avevo coscienza. Cioè ero riuscita ad anestetizzarmi. Non avevo coscienza. Cioè tutto questo 68 l'hai buttato, esatto, facendo esatto. La moglie tradizionale. Perfetta, mamma perfetta. E mi stava bene. Proprio veramente plagiata, anestetizzata dentro. Avevo fatto e tanto lottato e tanto creduto in niente. E poi quel giorno si è rotto, si è spezzato un filo. Si è spezzato il mio filo interno. C'è stato il cortocircuito, ho detto basta. E come hai fatto a separarti? Perché avrei trovato contro anche le famiglie. Allora, la mia mi ha tolto il saluto per 2 anni, sono stata reietta a tutto il parentato, ho creato scandalo, sono stata persino le mie parenti, insomma le mie zie, il tam tam si è sparso, le mie cugine aliene a me perché io aliena in quanto fato. Perché secondo loro tu dovevi abbozzare? Assolutamente sì, perché è così che le donne e le mogli fanno, prima o poi gli passa, tutte noi ci siamo passate. Ma che cos'hai tu di diverso? Passano, tanti mariti rimangono sempre delle mogli. L'idea che abbiamo di noi, il rispetto che abbiamo di noi, il concetto che abbiamo di noi di essere umano, pensante. Da quel momento ho cominciato a camminare, Barbara, non mi sono fermata più. Va bene, senti, allora Ilaria, io ti lascio alla tua vita ormai sfrenatamente libera e ti saluto. Libera e consapevole soprattutto. Mi è arrivato un messaggio nella bottiglia di una signora che dice: io sono religiosa e mio marito no. Col tempo ho cercato di indicargli la via perché Io penso, se ci si sposa davanti a Dio, il matrimonio è indissolubile, in questa vita ma pure nell'altra. E se dopo uno va in paradiso e un altro all'inferno, non è un matrimonio, è un divorzio eterno. Io ho fatto di tutto per salvarlo. A forza di pianti, scioperi, ricatti, mio marito ha ceduto al rosario, alla messa e perfino ai digiuni. Sembrava contento. Poi un giorno, di punto in bianco, ha chiesto il divorzio. E sai perché? Per darsi alla pazza gioia, per fornicare, un amante dopo l'altra. Strano però, il lussurioso con me non l'aveva mai fatto. Anzi, sai qual è il fatto? Che poi, tirando le somme, loro, alla fine, ce lo fanno vedere sempre poco e male. Lidia. Senti Lidia, ma perché ce lo dovrebbero per forza far vedere? A noi, le donne d'oggi, le soppesatrici, le saccenti, coi vizi ormai dei critici tromboni, quando si tratta di giudicare i nostri antichi padroni. E se ce l'avessimo, tu ed io, non lo terremmo forse stretto e rinfoderato come un cavallino che si protegga dall'inverno, come un nascosto palpitante cuore, perché non ci venisse anzitempo tolto o fatto brani? Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, ciao. Oh, la Maria delle Acciughe. Cosiddetta perché frequenta un signore che vende le acciughe. Cara Maria, come stai? Sto benissimo. Stasera vado a teatro a vedere un mio amico fantastico, un grande attore. Quindi sono molto contenta. Come si chiama? Si chiama Antonio Rezza. Antonio Rezza l'ho conosciuto perché era amico... sono dimenticata di dirlo l'altra volta, lui era amico sempre di quel signore per il quale ho lavorato, che aveva la mamma all'ospedale, ero conosciuto lì all'ospedale. E che tu hai assistito per 8 giorni e 8 notti consecutive? Esatto, e l'ho conosciuto lì perché la figlia della signora operata l'aveva chiamato in ospedale per far ridere la madre. Ed era fantastico, perché lui è un grande attore, un grande artista. E cosa faceva nella camera di dolore? Un miracolo vedere Rezza lì all'ospedale. A un certo punto hanno portato alla signora un foglietto dove c'era scritto praticamente tutta la prassi del prima dell'operazione. Quindi c'era scritto la signora verrà portata in sala operatorio dal personale specializzato, non so, tipo APT. Lui faceva finta che il personale specializzato APT fosse chiuso dentro l'armadietto in camera. E quindi lui apriva l'armadietto e buttava dentro l'armadietto delle mele per dar da mangiare a questi APT che dovevano poi al mattino sbucare fuori dall'armadietto e portare la signora in sala operatoria. Oppure ogni tanto gli dava dei calci all'armadietto e diceva state buoni, state zitti che qui c'è un malato. Poi andava fuori, andava in corridoio e andava a prendere i malati e li portava in camera e loro arrivavano con delle bellissime vestaglie serissime, non capivano come mai. E la signora malata in tutto questo? La signora malata è abituata ai matti, lei è abituata. No, ma è interessante perché io credevo che tu fossi stato 8 giorni e 8 notti china sulla malata in un clima cupo, così di ansia. Invece hai fatto il solito circo, Maria. Poi Rezza arrivava vestito con dei meravigliosi maglioni che gli fa la madre, stupendi, tutti colorati, a scacchi. Lui era anche in maschera arrivava vestito. E cosa diceva alla signora malata? Niente, diceva che non si doveva preoccupare, la cosa importante era sperare che questi APT, che secondo lui erano caricati come delle pile, non si scaricassero mentre portavano la signora in barella dentro la sala operatoria. Quindi la spaventava un pochino. E stasera che cosa rappresenterà lui? Stasera non lo so, penso che sia un nuovo spettacolo. Ah, tu vai a vedere lui per fede, qualsiasi cosa rappresenti? Sì, ma lui è meraviglioso. Ha cominciato a fare degli spettacoli infilando la faccia dentro a delle tele tagliate. E lui ha una faccia pazzesca. Poi pian piano... Pazzesca come? Come Totò. Ah, ecco. Una faccia che si la cambia come la vuole. Ha una faccia mobilissima. E poi? E poi pian piano ha cominciato a muoversi piano e negli anni adesso si veste di viola e balla per tutto il teatro. Si è scatenato, ecco. Prende tutte le donne e le sdraia per terra sul palcoscenico. Al contrario di Nicoletti, Nicoletti le solleva e lui le sdraia. Sì, e poi comincia a toccare il culo a tutte le donne. E, insomma, così. Мне нравится, что вы больны немной. Questa è la seconda puntata di una storia che si svolge in Russia agli inizi del Novecento ed è tratta dal mio libro Sonata a Tolstoi, pubblicata da Baldini Castoldi Dalai. La leggo puntate per gli appassionati della crudeltà in amore. E questo è il riassunto della prima puntata. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной. Davidov, il capo dell'Okhrana, la polizia segreta zarista, tradiva chiunque, per indole e per mestiere, ma fu sempre fedele all'amore per una sola donna, Natalia, che era la più bella ragazza di Tula, ricca, viziata e piena di uno spirito tagliente, famosa oltre che per la sua bellezza, per la sua arguzia irriverente. Davidov se n'era innamorato da ragazzo, quando per lui Natalia era un sogno irraggiungibile. Lei era inferiore di rango, era senza un soldo e quindi si accontentava di vederla passare. Finché un giorno riesce ad accostarla e le dice: «Io devo partire, aspettatemi. Al ritorno ci sposeremo». La ragazza scoppia a ridere con una risata veramente offensiva e invece lui non si offende. La prende per una sfida e quasi per un pegno d'amore. Davidov, dopo 5 anni, torna all'improvviso ed è diventato il capo della polizia segreta. È potente e ha anche accumulato una ricchezza sterminata e molto sospetta. Sa che Natalia non si è mai sposata e pensa che sia stato per aspettarlo. E quindi vorrebbe precipitarsi subito a farle la sua richiesta. Però tarda di un giorno per colpa del sarto, che non gli consegna in tempo il vestito e lui ci tiene ad andare smagliante. Ma la mattina dopo si sveglia e in città c'è stato un grande scandalo. Natalia quella notte è scappata col principe Zhubov, che è un donnaiolo volgare. Questa è la seconda puntata. Natalia viveva col suo amante, col principe Zhubov, con grande scandalo della città. Il principe non l'aveva sposata. Le fece fare un figlio che non riconobbe e la teneva da concubina nella casa di campagna. La umiliava. Aveva altri amanti. Mentre Natalia languiva nella miseria della sua prigionia, invece la sua rivale, Maria Alexandrovna, rivale da tempo immemorabile dei tempi del collegio, sposò quello che era stato il suo più assiduo adoratore. Natalia lo seppe e a questo dispetto si aggiunse al dolore del suo terribile sbaglio. Ma più di lei soffriva Davidov. Мне нравится, что я больна не вами. Il capo della polizia segreta divenne il terrore della regione. Arresti, deportazioni, tutti si sentivano spiati. Il capo dell'Ucraina non dormiva. Di giorno tendeva trappole. Di notte correva a cavallo fino alla tenuta del principe Zhubov, che era in giro con altre. E guardava la finestra illuminata di lei, che aspettava il suo padrone. Natalia se ne accorse. Una notte si affacciò e risse nel buio. Voleva ripetere la risata ironica di quel giorno, ma venne fuori stridula, piena di rabbia e di vergogna. Davidov era sempre stato uno stravagante, ma le sue stranezze si accentuarono. Aveva un vizio. Collezionava opere d'arte per tenerle in una stanza che non apriva a nessuno. E lui si chiudeva a chiave per ammirarle. Ne era geloso. Sarebbe stato pronto a sfregiarle per non farle cadere nelle mani di un altro. Così avrebbe fatto con Natalia se mai fosse riuscito. Pensava sempre come farla sua, finché decise di assassinarle l'amante. Ma fu preceduto. Il padre di Natalia affrontò il principe Zhubov, intimandogli di sposarla. Davanti al suo rifiuto lo sfidò a duello. Il principe gli rispose beffardamente che uno del suo rango non poteva battersi con un uomo che aveva una figlia disonorata. Il vecchio allora gli sparò in faccia. Riuscì a salvarsi all'estero, perché Davidov favorì la sua fuga. Natalia allora tornò nella casa vuota del padre col piccolo bastardo. Per la città intera era come se fosse morta. I parenti la rinnegarono. Davidov lasciò che soffrisse della sua condizione di appestata. Poi finalmente si presentò a chiederla in moglie. Disse di sì, che lo avrebbe sposato. Ma adesso era lei che non conveniva a lui socialmente. Un uomo con quella carica non poteva sposare una donna caduta così in basso. Per Davidoff si poneva una scelta: o la carriera o il matrimonio. Gli a Pietroburgo lo minacciarono che se avesse sposato Natalia avrebbero chiesto le sue dimissioni e Davidoff le rassegnò immediatamente. I superiori ci rimasero male. Con tutti quei sovversivi che spuntavano da ogni angolo della Russia, Davidoff era indispensabile. Il suo potere pesava più dello scandalo. И не играть словами, и не краснеть удушливой волной. Lo zar in persona lo chiamò. Volle parlargli per ridurlo alla ragione. Lui serenamente gli disse che aveva scelto l'amore. Lo zar gli chiese: è bella? Davidoff gli mostrò il ritratto nella tabacchiera. Lo zar guardò a lungo il volto di Natalia e lo riconfermò nell'incarico. Per riabilitare Natalia, li fece sposare a corte, solennemente. Questo azzittì tutti. La sua eterna rivale, Maria Alexandrovna, dal dispiacere cadde ammalata e fu lì per morire. Lo zar propose a Davidoff di trasferirsi a Pietroburgo. Gli sarebbe piaciuto far risplendere quella donna bellissima a corte, come aveva fatto già Nicola I con la moglie di Pushkin, che si chiamava pure lei Natalia, e forse corteggiarla in proprio. Ma dalla durezza di Davidoff capì che non era il caso di insistere con gli inviti. Lo zar aveva paura della rivoluzione. Davidoff era più forte anche di lui. Ora Natalia era sua moglie. Davidoff aveva riconosciuto il figlio e lo amava, ma soffriva della bellezza di lei, perché la potevano vedere tutti e non poteva chiudere la chiave come i suoi dipinti. Diceva: io sono l'uomo che ha rubato la Gioconda, e aveva paura degli altri ladri. Dopo che gli scandali di Natalia si erano conclusi con lo sforzoso matrimonio a corte, tutta la città ne era di nuovo innamorata. Tornò di moda più che da ragazza. Si organizzavano apposta ricevimenti prestigiosi per vederla da vicino. Però un agente riferiva al capo della polizia ogni sua mossa. Rapporti noiosi, pieni di visite in chiesa, dalla modista, dalle dame più imbalsamate. A ombra di Natalia, Davidoff aveva eletto il più insignificante dei suoi uomini, il quieto Liebeyedev, un giovane senza ambizioni e senza storia, il quale, per distinguersi, portava sempre un cravattino giallo che lo rendeva ancora più comune. Era a Davidoff di una fedeltà canina. Tuttavia, per istinto, Davidoff si mise a pedinare il pedinatore e scoprì che proprio lui, lo squallido Liebeyedev, si incontrava di nascosto con Natalia in una casa fuori mano. Li vide entrare. Il capo della polizia segreta si abbassò a scassinare il portone, a guardare dal buco della chiave. Si aspettava di sorprenderli a letto, ma ciò che vide lo straziò più che se li avesse trovati avvinghiati. За то, что я, увы, больна не вами. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.